Bologna e dintorni. Come va il mondo? Sabato 30 novembre, puntata numero 10 per Bologna e dintorni. Io sono Alessandro Albana. Martedì 19 novembre a Hong Kong oltre 40 persone sono state condannate a seguito di quello che è stato definito il più grande processo per reati contro la sicurezza nazionale. Per comprendere l'importanza di questo evento è necessario fare un lungo passo indietro nel tempo, perché Hong Kong è una città ostaggio della storia da almeno un secolo e mezzo. Il porto profumato, espressione con cui i cinesi si sono storicamente riferiti a Hong Kong, è stato strappato dai britannici all'impero cinese a seguito delle guerre dell'oppio della metà del 1800 ed è rimasto territorio britannico fino alla fine del secolo successivo. Un accordo del 1984 tra Cina e Regno Unito ha stabilito il ritorno di Hong Kong sotto la sovranità della Repubblica Popolare Cinese a partire dal 1997. Pechino si impegnava a garantire un'ampia autonomia della città secondo il principio un paese e due sistemi. Pur ritornando formalmente sotto la sovranità cinese, Hong Kong, sulla base di questo principio, avrebbe mantenuto per almeno 50 anni ampie quote di autonomia politica e di organizzazione istituzionale da Pechino. Quella del ritorno di Hong Kong alla Cina però è una storia che non ha mai conosciuto una vera e propria pacificazione, costretta tra i tentativi di Pechino di esercitare maggiore controllo politico-istituzionale da un lato e le istanze di quegli abitanti che invece desiderano per la città un presente e un futuro quanto più lontano possibile dall'integrazione con la Cina. Parliamo di gruppi troppo semplicisticamente etichettati come pro-democratici e che in verità hanno raccolto istanze diverse, per niente uniformi e nel tempo anche mutevoli. In questo quadro, per 20 anni, Hong Kong è stata teatro di accese contrapposizioni politiche, di mobilitazioni sociali e di scontri. Con queste premesse si arriva al 2019, a giugno, con la governatrice Carrie Lam pronta a promuovere la legge sull'estradizione, una misura che avrebbe permesso alla Cina di ottenere la consegna di condannati fuggitivi a Hong Kong. Hanno inizio imponenti manifestazioni di protesta con milioni di persone scese in strada e pesanti scontri con le forze dell'ordine. Dopo una settimana dall'inizio delle proteste, l'approvazione della legge è stata sospesa e il mese successivo la legge viene ritirata. Le proteste però non si fermano, alimentate tra l'altro dall'uccisione di un manifestante per mano della polizia. Le richieste dei manifestanti si fanno nel tempo più radicali e i mesi successivi passano scanditi da violenti scontri con le forze dell'ordine, dall'assalto dei manifestanti alla sede del Consiglio Legislativo di Hong Kong e delle occupazioni dei campus universitari, poi sgomberati. Ciò che era uscito dalla porta però rientrerà presto dalla finestra. Seppellita la legge sull'estradizione, dopo mesi di instabilità, scontri e violenza, nel 2020 è il turno della legge sulla sicurezza nazionale. Approvata su spinta e con il favore di Pechino, la misura ha introdotto pene molto severe per i reati di secessione, sovversione, terrorismo e collusione con individui o forze straniere contro la sicurezza di Hong Kong. Si tratta di reati specifici ma ampiamente interpretabili che negli anni hanno portato in tribunale e in carcere centinaia di persone. E sulla base di questa legge, ulteriormente inasprita quest'anno, che le oltre 40 persone di Hong Kong sono state condannate 10 giorni fa. Per comprendere meglio l'intreccio di questi fatti e le trasformazioni in corso, oggi saremo in collegamento proprio con Hong Kong, dove vive l'ospite di questa puntata. Prima, però, un po' di musica per rifiatare. My mind. Bologna, i Black Veils con Cities on Fire. Bentornate e bentornati. Dunque, la scorsa settimana a Hong Kong decine di persone sono state condannate a seguito di quello che è stato definito il più grande processo per reati connessi alla sicurezza nazionale. Per parlare di questo e dei processi, degli sviluppi in corso a Hong Kong, siamo oggi in collegamento con Ilaria Maria Sala, giornalista e collaboratrice di numerose testate, tra cui Internazionale e il New York Times, autrice di numerosi libri, ne citiamo soltanto uno, L'eclissi di Hong Kong, topografia di una città in tumulto, edito da ADD Editore nel 2022. Ilaria Maria Sala vive e risiede a Hong Kong e da Hong Kong è oggi collegata. Buongiorno Ilaria. Buongiorno. Dunque Ilaria, per prima cosa ti chiederei di aiutarci a comprendere meglio i fatti della scorsa settimana, le condanne del 19 novembre, quali sono le ragioni del processo, come si è arrivati alle condanne e chi sono i personaggi, le persone coinvolte in quello che, come dicevamo, è stato definito il più grande processo della storia di Hong Kong per reati connessi alla sicurezza nazionale. Intanto dobbiamo inquadrare che cosa sia la legge sulla sicurezza nazionale per capire appunto come siamo arrivati a questo e anche chi sono queste persone. La legge sulla sicurezza nazionale è stata introdotta da Pechino nel 2020, quindi nel corso della pandemia, ed è stata la prima legge che Pechino ha redatto e imposto a Hong Kong, ex colonia britannica, senza metterla al vaglio dei legislatori di Hong Kong, del mini parlamento di Hong Kong che si chiama LegCo, Legislative Council. Questa legge sulla sicurezza nazionale è una legge che si occupa di determinare tutta una serie di crimini che potrebbero danneggiare la sicurezza nazionale, però ha anche delle prerogative che sono piuttosto inusuali per Hong Kong, ovvero quando diciamo che Hong Kong è una ex colonia britannica, questo significa anche che il sistema giuridico di Hong Kong è un sistema di common law, che è il sistema britannico, e che è un sistema che si basa solitamente sul precedente ed è un sistema anche piuttosto prevedibile, proprio perché si basa sul precedente. Davanti a certi crimini le pene previste hanno una certa prevedibilità. Invece la legge sulla sicurezza nazionale è stata scritta dal, chiamiamolo, Parlamento cinese con i criteri della giustizia cinese di che cosa è un crimine e quali sono le pene che ne conseguono. Per cui conta moltissimo l'intenzione, ancora prima che non quello a cui può aver portato un certo comportamento, un certo gesto, un certo crimine. Una fra le cose che sono cambiate a Hong Kong con l'introduzione di questa legge è stata anche la necessità per chiunque sia attivo nella sfera pubblica, per chiunque sia un funzionario, per chiunque voglia candidarsi alle elezioni, eccetera, eccetera, si viene vagliati su fino a che punto si è patrioti o meno. C'è un comitato speciale che è stato approntato dopo l'introduzione della legge per valutare il patriottismo delle persone. Questo è un po' l'introduzione, se vogliamo, a che cos'è questa legge, che tipo anche di sfumature giuridiche ha e anche in che modo è diversa da quello che era prima, come erano scritte le leggi a Hong Kong. Fra l'altro notiamo anche nel testo stesso un tono molto più emotivo rispetto a quello che appunto è la secchezza, se vogliamo, della common law. Quello che è successo è stato che questi 47 imputati volevano tutti candidarsi alle elezioni che ci sarebbero dovute essere nel 2021, che non ci sono state per la pandemia e anche per il bisogno di introdurre una riforma alla legge elettorale, che per appunto doveva anche mantenere questo principio di patriottismo per tutti i possibili candidati. Comunque i 47 erano delle figure politiche o nuove alla politica, però figure pubbliche, diciamo, si erano avvicinate alla politica decidendo di candidarsi e quindi avevano organizzato delle elezioni primarie per, come sempre con le primarie, stabilire quali fossero i candidati che avevano le maggiori possibilità di essere favoriti dagli elettori e quindi avere maggiori possibilità di vincere le elezioni e ottenere sufficiente peso all'interno del Consiglio legislativo, il Legislative Council di cui parlavo prima, per poter bloccare, per esempio, certe proposte governative. Ora, qui bisogna purtroppo fare un nuovo inciso perché il sistema a Hong Kong non è così semplice da spiegare. Questo consiglio legislativo oggi sono stati aumentati i membri che sono presenti, però non è mai stato un consiglio legislativo eletto per suffragio universale nella sua interezza. Quello che si aveva fino a prima della riforma elettorale era un sistema composito, per cui la metà era eletta per suffragio universale, una parte era eletta per voto di grandi elettori, per cui voto corporativo, diciamo, ma non solo corporativo, per cui per esempio gli insegnanti eleggevano una persona che era preposta all'educazione, le banche avevano il loro rappresentante che veniva eletto solamente dai direttori delle banche, eccetera, e poi un piccolo gruppo invece che era direttamente nominato, per cui già di suo prima della riforma non si trattava di un consiglio legislativo che risponde alle nostre idee di cos'è un'elezione democratica, però quello che avevano fatto i 47 era cercare di ottenere un numero sufficiente di loro rappresentanti in questo consiglio legislativo per poter bloccare alcune proposte governative. Il motivo per il quale loro sono finiti imputati per aver attentato alla sicurezza nazionale è perché è stato determinato dal governo, che è l'accusa in questo caso, che il tentativo di vincere le elezioni per fare l'opposizione è una cospirazione per sovversione, ovvero dichiararsi desiderosi di essere nel mini Parlamento per bloccare il governo significa voler sovvertire il governo. Per cui questo è stato un po' l'iter, diciamo, quello che è successo, come è successo e che è anche stato un notevolissimo spartiacque perché fra questi 47 ce ne sono diverse che erano da tempo dei legislatori, che da tempo sedevano appunto in questo consiglio legislativo e che non avevano mai fatto mistero delle loro posizioni pro democrazia, delle loro posizioni contrarie a diverse visioni portate avanti dal governo, e quindi siamo passati da volti molto noti che erano frequentemente intervistati dai vari giornalisti in quanto attori politici pubblici a invece persone che sono state giudicate criminali per questa cospirazione per sovvertire il governo. Sì, il processo e le condanne della scorsa settimana appaiono essere un po' come l'atto finale, o meglio, l'ultima tappa della storia della legge sulla sicurezza nazionale. Però l'impatto e le implicazioni della legge sono state più ampie, hanno riguardato una dimensione più ampia, ovvero l'intera vita pubblica, sociale, politica e anche privata a Hong Kong. Dico questo perché si parla di migliaia di persone emigrate dalla città proprio a causa dei timori legati alla legge sulla sicurezza nazionale. Alcune organizzazioni parlano anche addirittura di 500.000 persone emigrate a partire dall'approvazione della legge, però chiedo a te che a Hong Kong continui a vivere. Per chi è rimasto invece, com'è cambiata la vita? È esagerato sostenere che Hong Kong oggi sia una città che somigli molto poco o quasi per niente a quella di 5 anni fa, ovvero della vita prima delle manifestazioni del 2019? Non è una domanda facile perché dire che non somigli quasi per niente naturalmente sarebbe eccessivo e forse anche costerebbe troppo ammetterlo. Per chi rimane, ci sono diversi motivi per rimanere, ovviamente. Uno di questi è anche non voler ammettere la realtà in parte, per cui se guardiamo in tanti campi, fra tante persone, c'è una volontà di restare a Hong Kong, di continuare a vivere il più possibile come si viveva prima, proprio cercando di non ammettere che questo cambiamento è stato così profondo. Poi è un cambiamento invece nel quale ci si imbatte quasi quotidianamente. Su alcune cose in superficie si potrebbe pensare che il cambiamento non sia così profondo, però veramente stiamo parlando di superficie. Una cosa che continua a differenziare in maniera sostanziale Hong Kong dal resto della Cina, per esempio, è l'accesso a internet quasi interamente libero. Dico quasi perché ci sono alcuni siti che sono stati bloccati ad hoc, che però è una cosa molto diversa da quello che abbiamo in Cina, in cui invece si parla di un internet interamente controllato, per cui a Hong Kong si può accedere alla maggior parte della stampa estera, per esempio, anche della stampa taiwanese, questo non è possibile dalla Cina, si può accedere ai vari social internazionali e tutto questo non è possibile in Cina, per cui è solo un esempio, però internet ovviamente, visto l'importanza che ha nelle nostre vite, è un esempio non da poco. In alcuni campi si può pensare che le cose non siano quasi cambiate, parlo soprattutto nelle arti visive in particolar modo, non tanto nel cinema e non tanto anche nel teatro oppure in altri tipi di arti. Quello però che ha portato molte persone a scegliere di lasciare Hong Kong è stato soprattutto di non dare ai propri figli un'educazione così tanto modificata dall'introduzione della legge sulla sicurezza nazionale, per cui la maggior parte delle persone che sono partite sono o delle persone che erano molto coinvolte con le proteste del 2019, per cui avevano pensato che fosse più sicuro per loro uscire, oppure famiglie con bambini in età scolare che hanno deciso che appunto volevano che i loro figli avessero accesso a un'educazione libera e non a un'educazione che oggi è molto più simile, se vogliamo, a quella che c'è anche sul resto della Cina continentale. Di nuovo, non uguale, ma molto più simile, con fra l'altro l'obbligo nelle scuole, nelle università di studiare la legge sulla sicurezza nazionale. E ancora a proposito di chi a Hong Kong è rimasto, ti chiederei qual è lo scenario, qual è la realtà per chi si mobilita, per chi protesta, la realtà delle lotte, se esiste ancora una dimensione di mobilitazione che può essere in qualche modo agita e parallelamente se esiste uno spazio di dibattito pubblico e aperto in cui esprimere opinioni, posizioni e critiche anche per esempio per quanto riguarda le relazioni con Pechino. No, domanda con la risposta più breve di tutte. No, tutto questo non è più, soprattutto rispetto a Pechino, tutto questo non c'è più. Dobbiamo considerare che fra i 47 che sono stati arrestati, no, non rappresentano solo la sfera politica in senso stretto, ma erano anche rappresentanti di quasi tutta la società civile di Hong Kong. Sono stati arrestati leader che erano volti del movimento ambientalista, del movimento LGBTQI, del movimento per la libertà di espressione, per cui un ampio raggio di quella che appunto era la società civile di Hong Kong non solo appunto ha visto alcuni dei suoi leader incarcerati e condannati a delle pene severe, ma anche sindacalisti sono stati arrestati e infatti moltissimi di questi gruppi che erano a Hong Kong da decenni, che non avevano avuto nessun problema nemmeno quando Hong Kong era una colonia, per l'appunto, molti di questi gruppi sono stati sciolti o per loro iniziativa per evitare rischi oppure gli è stato detto di sciogliersi. Quello che avviene oggi, appunto, in termini di mobilitazione o di altre cose che hai citato prima, non esiste più a Hong Kong. Ci sono delle cose che avvengono negli interstizi, negli spazi che sono creati ancora più che rimasti, per cui continuano ad esserci, per esempio, alcune librerie indipendenti. Per esempio, la settimana scorsa, in una libreria indipendente, durante la presentazione di un libro, ci sono state delle persone che sono entrate di forza per attaccare l'autore perché aveva fatto dei post pro-democrazia nel passato, per cui anche questo non è sempre senza intoppi, diciamo. Oppure ci sono delle altre situazioni all'interno, soprattutto di nuovo di spazi artistici, in cui si può maggiormente parlare di alcune delle questioni pressanti, però mantenendolo in termini più generali, se vogliamo. Non, magari si può parlare di identità, si può discutere di identità di Hong Kong piuttosto che identità cinese o cercare di capire in che modo le due possano avere delle differenze, però questo viene fatto appunto all'interno di un'espressione artistica e non più così tanto all'interno di un'espressione di cittadinanza o di politica. Quindi, da tutti questi punti di vista, decisamente le cose sono cambiate. Sono cambiate anche in modo visivo, se guardiamo per la strada quelli che erano prima l'abbondanza di cartelli, manifesti messi dai partiti di opposizione, che per la maggior parte appunto non esistono più. Adesso ci sono solamente i cartelli politici dei partiti pro-governo di maggioranza e non ci sono più manifestazioni a Hong Kong. Le ultime sono state appunto nel periodo fino al 2019. Non ci sono più appunto scioperi sindacali proprio perché i sindacati sono stati fatti sciogliere, rimangono solamente i sindacati appoggiati dal governo e quindi appunto è molto visibile, anche visibile andando semplicemente dal giornalaio, dal tabaccaio per comprare i giornali. Si vendono anche dal tabaccaio. I giornali che erano l'Apple Daily, il giornale pro democrazia più popolare, è stato fatto chiudere da già 3 anni e mezzo e quindi quello spazio dove veniva messo quel giornale adesso è occupato invece da dei giornali di nuovo pro governo. Ilaria, in realtà il tempo a nostra disposizione sarebbe terminato. Io però voglio comunque approfittare della tua presenza, seppur a distanza, come testimone che vive la realtà di Hong Kong per un'ultima domanda, per un ultimo flash. Come è cambiata la vita, come sono cambiate le cose per chi come te a Hong Kong ci vive, ma a Hong Kong non è nato, però della narrazione, del racconto di Hong Kong ha fatto fondamentalmente un mestiere. Ma è chiaro che appunto adesso ci si concentra maggiormente sugli interstizi a cui accennavo prima, ci si concentra di più su quelle che sono le cose esistenti e delle quali si può parlare. Oggi è diventato molto più difficile intervistare tutta una serie di persone che hanno maggiormente timore della stampa estera e quindi appunto ci si concentra sugli interstizi e su quello, sulle tantissime storie che comunque a Hong Kong continuano ad esserci e che secondo me meritano di essere raccontate. Dopo aver ricostruito un quadro, come spesso accade in questa trasmissione, a tinte piuttosto cupe, ci possiamo lasciare, direi, con questa nota che ci dà la possibilità di ossigenare un po', con questa nota di ottimismo. Ilaria, io ti ringrazio davvero tanto per il tuo tempo e la tua disponibilità, nonostante la differenza di fuso orario. Io spero davvero che avremo modo di risentirci presto. Senz'altro, grazie a voi. Prima di salutarci, vi ricordo che è in corso fino al 6 gennaio la campagna a sostegno di Radio Città Fucico, una radio incontenibile. Trovate tutte le informazioni all'indirizzo internet www.radiocittafucico.it/abbonamenti. Grazie ancora Ilaria Maria Sala, grazie a tutte e tutti. Noi ci sentiamo il prossimo sabato, come al solito, su Radio Città Fucico.